Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: Le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse: Deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Gesù oggi pone questa domanda ai discepoli e la pone in un momento in cui si trova a pregare. Quindi questa domanda Gesù la rivolge anche a noi che stiamo in preghiera, perché in preghiera possiamo scoprire la vera risposta su chi è Gesù per noi. Prima Gesù prende la domanda un po' alla larga, dice la gente chi dice che io sia, e poi domanda: E voi chi dite che io sia? E allora anche oggi a noi il Signore sta facendo la stessa domanda. Tu Maria, tu Giovanni, tu Federico, tu Francesca, chi pensi che io sia? Chi sono io per te? E questa domanda. Non dovremmo rispondere a questa domanda in maniera astratta, ma in maniera concreta, cioè guardando la nostra vita, guardando la mia vita, guardando i miei pensieri, il mio comportamento, i miei desideri, chi è Gesù per me? Non teoricamente, non secondo la mia riflessione staccata dalla vita, ma che cosa dice la mia vita su chi è Gesù per me? E oggi celebriamo anche San Padre Pio, continuiamo a chiamarlo Padre Pio, non ci viene da dire San Pio da Pietralcina. E lui veramente ha dimostrato chi era Gesù per lui, era proprio il Cristo. Figlio di Dio, cioè era proprio colui che lui stesso aveva detto di se stesso. Il figlio dell'uomo disse: deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. E che cosa ha dimostrato Padre Pio con la sua vita? Che lui veramente ha rivissuto nella sua esistenza quello che ha vissuto Gesù. Ecco perché Gesù per lui era il Cristo di Dio. E ci sembra strano che oggi Gesù ordina ai discepoli di non dirlo a nessuno. Perché Gesù dice di non dire a nessuno che lui è il Cristo di Dio? Perché la gente non è pronta a capire che cosa vuol dire il Cristo di Dio. Il Cristo di Dio non è il Dio vittorioso, il Dio impassibile, il Dio tutta gioia e niente pensiero, misericordia, amore. Per le persone, ma il Dio in cui il Dio di Gesù Cristo è proprio il Dio che si è fatto uomo e che ha voluto condividere con noi il nostro cammino e portare su di sé le miserie del mondo. Ecco che per questo Gesù dice no, di non dirlo a nessuno, perché ancora non sono pronti. Quando gli apostoli stessi non hanno capito che cosa vuol dire essere il Cristo di Dio, forse anche noi non l'abbiamo capito. Allora guardiamo la nostra vita. Se io ho capito che Gesù è veramente il figlio di Dio, quel Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si fa uomo per me, quindi che cosa lo dimostra che io lo capisco, che Cristo è il figlio di Dio che ha sofferto, è morto ed è risorto per me, se anche io nella mia vita accetto tutto quello che il Signore permetta che mi accada, non passivamente ma attivamente, cioè come un dono che mi viene dato dall'alto per collaborare insieme a Gesù alla salvezza del mondo. Allora in questo modo io dimostro che Gesù è il figlio di Dio, proprio il figlio di Dio rivelato da Gesù. Allora oggi chiediamoci, ma chi è Gesù per me? La mia vita dimostra veramente che io credo in questo Gesù, figlio di Dio, e se ci credo veramente posso cantare questo canto. Con gioia cammino verso la speranza, con Dio sempre vincerò. Alleluia, alleluia. Buona giornata.